Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Udine, calciatore professionista denunciato per violenza sessuale. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando la presunta vittima si è presentata al pronto soccorso dopo l'aggressione. Avviato al Senato l'iter parlamentare per il parere sulla nomina di Antonio Gurieri a presidente dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone. L'ottava commissione ha formalmente esaminato la proposta. Aumentano del 3% le rimesse inviate a casa dagli stranieri che vivono in regione. Si tratta di 174 milioni di euro nel 2024. Trieste, inaugurati nel rione di Roiano gli spazi esterni dell'ex caserma della Polizia Stradale, ultima parte della riqualificazione dell'area per un importo di circa 1,5 milioni di euro. Punta a individuare i segni precoci della demenza, lo screening cognitivo gratuito per over 60 proposto in occasione della settimana della prevenzione presentata oggi a Pordenone. Presentati i lavori di ammodernamento del canale di Castion San Mortegliano, progetto gestito dal Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana e che interessa numerosi comuni della Bassa. Lo sport, il basket e i playoff di A2. Cividale supera di nuovo l'Unieuro Forlì in casa con il punteggio di 82-74, un successo fondamentale per gli uomini di coach Pillastrini. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Andrei Marussic. Un calciatore professionista è stato denunciato per violenza sessuale a Udine. I fatti risalgono a domenica scorsa. A sporgere denuncia, dopo essersi presentata in pronto soccorso, una donna che ha trascorso la serata in compagnia di alcuni amici in un locale, poi è stata accompagnata dal calciatore in un appartamento dove sarebbero avvenute le violenze. I contorni della vicenda sono ancora poco chiari, ma ce la conferma. Un calciatore professionista residente a Udine è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del capoluogo friulano per violenza sessuale. Del giocatore in questione rimangono ignote l'identità e anche età e soprattutto squadra di appartenenza. I fatti sono avvenuti nella notte tra domenica e lunedì. Una donna, dopo una serata in un locale, si è presentata da sola al pronto soccorso dell'ospedale della Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha raccontato agli operatori sanitari e ai carabinieri di essere stata violentata dal giocatore nell'appartamento dello stesso. Il giocatore l'avrebbe abbordata al bar assieme ad alcuni amici e l'avrebbe accompagnata nella propria abitazione in stato visibilmente alterato dall'alcol per stessa ammissione della donna. Qui quest'ultima avrebbe subito atti sessuali contro la sua volontà nonostante, sempre secondo racconto, avesse rifiutato gli approcci tanto dello sportivo quanto di due amici in sua compagnia, che però non sarebbero stati segnalati anche in quanto sconosciuti. Nella mattinata di lunedì la denuncia da parte dei carabinieri con l'ipotesi di violenza sessuale. La procura di Udine, che prosegue le indagini nel riserbo per verificare i fatti, ha confermato l'uomo potrebbe essere sentito già nel corso della settimana. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è in corso a Trieste l'assemblea degli azionisti di Fincantieri per approvare il bilancio 2024. Il primo trimestre 2025 ha segnato il miglior risultato della storia del gruppo controllato da Cassa Depositi e Prestiti, con una crescita del risultato operativo prima di interessi, imposte e ammortamenti pari al 54% e un portafoglio ordini mai registrato prima. Il caso Resinovic, questa sera la trasmissione Chi l'ha visto in onda su Rai 3 proporrà un'intervista a Giacomo Molinari, il preparatore anatomico, che ritiene di avere rotto una vertebra di Liliana durante l'autopsia. Anche se la seconda perizia effettuata sul corpo della donna è sottoscritta tra gli altri da Cristina Cattaneo, afferma che si tratta di una lesione avvenuta prima della morte e provocata da una terza persona. Il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, aveva per questo parlato di affermazioni false e inattendibili, annunciando una querela. A questo ieri hanno risposto con un comunicato i legali di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic. Ci chiediamo, affermano gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, come possa affermarsi fin d'ora che le considerazioni di Giacomo Molinari siano false e quindi inattendibili, prima ancora di capire se egli sia stato sentito in procura e sia stato quindi sondato dal pubblico ministero che procede al riguardo. Questo ovviamente, aggiungono i legali, a meno che non vi siano delle conoscenze processuali diverse da quelle che la difesa dell'imputato fin qui non ha. È stato avviato al Senato l'iter parlamentare per il parere sulla nomina di Antonio Gurieri a presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale. Ieri l'ottava commissione di Palazzo Madama ha formalmente esaminato la proposta siglata dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini lo scorso 24 aprile assieme all'intesa espressa dal presidente della regione Massimiliano Fedriga il 28 aprile. Preso atto della documentazione della proposta, la commissione ha annunciato che Gurrieri sarà udito la prossima settimana, presumibilmente martedì. Il giorno successivo ci sarà la votazione, ricordiamo che il parere della commissione non è vincolante. Relatrice per il provvedimento la senatrice Francesca Tubetti di Fratelli d'Italia. Si attende ancora che venga fissata l'analoga seduta della nona commissione della Camera, pure chiamata a esprimere un parere. Per questa settimana non sono previste convocazioni. Dopo l'acquisizione dei pareri, il provvedimento ritornerà al Ministero per la firma definitiva. La pagina del tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste, Pordenone 19,5 gradi, Udine 20,5, Gorizia 21, Sappada 12, Forni di Sopra 15, Tarvisio 16, Tolmezzo 18, Monte Zoncolan e Monte Lussari 6,5, Grado 20, Lignano 21. Le previsioni per le prossime ore sulla zona montana, cielo da poco nuvoloso a variabile con bassa probabilità di qualche rovescio temporalesco nel pomeriggio, su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, venti a regime di brezza. In leggera crescita il denaro che viene inviato dagli immigrati in Friuli Venezia Giulia verso i paesi di origine, la nazione che ne beneficia in maniera maggiore è il Bangladesh, seguita da Georgia e Pakistan. Lo scorso anno gli stranieri che risiedono in Friuli Venezia Giulia hanno inviato verso i paesi di origine, attraverso i canali ufficiali e tracciabili, 174 milioni di euro. Il dato fa segnare un leggero aumento pari al 3,1% rispetto al 2023 ed è cresciuto dell'83,5% in 10 anni. Numeri che arrivano dall'elaborazione svolta dalla Fondazione Leone Moressa sui dati della Banca d'Italia e che non tengono conto, precisa lo stesso studio, delle cosiddette rimesse in visibili, cioè quelle ad esempio effettuate con denaro contante. Su base provinciale, lo scorso anno sono partiti verso l'estero 65 milioni dalla provincia di Udine, 41 da quella di Pordenone, 24 da quella di Trieste e 44 da quella di Gorizia. In quest'ultimo caso, analizzando i dati grezzi di Banca Italia, emerge che si tratta per la maggior parte di rimesse verso il Bangladesh. In tutto, nel 2024 sono stati trasferiti dalla regione verso questo paese oltre 44,5 milioni, con un aumento di oltre il 17%. Un dato cresciuto in modo esponenziale nell'ultimo ventennio e in linea con quello nazionale. Il Bangladesh guida infatti anche la classifica dei paesi che hanno ricevuto più denaro dall'Italia nel suo complesso, quasi 1,4 miliardi. Secondo paese di destinazione delle rimesse regionali la Georgia, con quasi 24,9 milioni, in aumento di oltre il 9,5%. Terzo il Pakistan, con quasi 19,5 milioni, circa il 5% in meno rispetto al 2023. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel rione di Roiano a Trieste sono stati inaugurati gli spazi esterni riqualificati dell'area ex Polstrada di Roiano in via Montorsino, ultima parte della riqualificazione dell'area per un importo di circa 1,5 milioni di euro. Una vera festa di quartiere dove protagoniste sono le nuove generazioni, i bambini e le loro famiglie in primis, all'inaugurazione degli spazi riqualificati dell'area ex Polstrada di Roiano nel cuore del rione a Trieste. Di fatto si conclude un progetto ingente da oltre 9 milioni di euro tra demolizione del vecchio edificio e nascita di un nuovo spazio cittadino fatto di asilo nido, parcheggio e area giochi immersa in un parco verde di 4.200 piante e 100 alberi. Presenti le istituzioni e le scuole. Gianluca Parisi, presidente della terza circoscrizione, è qui con noi. Lei è giovane, ha 28 anni, era bambino quando si è iniziato a pensare tutto questo? Sì, era il 2002, ero bambino, andavo all'asilo, si sono gettate le basi all'epoca di questo grande progetto che di fatto ha riqualificato il cuore del rione di Roiano. Per lei che cosa significa questo? Perché lei dice qua dovremmo fare cittadinanza attiva. Assolutamente, qui bisogna fare cittadinanza attiva, bisogna continuare a fare comunità. La comunità di Roiano è già molto forte, molto presente e bisogna continuare su questa strada con eventi organizzati con la circoscrizione, con le associazioni del territorio. Un bellissimo parco per bambini con giochi di ultima generazione, un'area per arrampicarsi, un'area cane, un grande parcheggio utilissimo naturalmente per questo quartiere e un asilo nido da oltre 60 posti. Asilo nido completato un anno fa ma ancora chiuso. ancora chiuso perché in consiglio comunale si sta mettendo al vaglio, diciamo, la gestione dell'asilo proprio. Però la gente chiede, vuole un'apertura, insomma, a settembre magari? Ce lo auguriamo. Come presidente della circoscrizione ovviamente auspico che il comune di Trieste possa trovare una quadra anche su questo argomento. Trieste, Anna Vitadiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel 2024 l'illegalità è costata alle imprese del commercio dei pubblici esercizi in Italia più di 39 miliardi di euro e ha messo a rischio 276 mila posti di lavoro regolari, in leggera crescita rispetto all'anno precedente. In dettaglio, l'abusivismo commerciale costa più di 10 miliardi di euro, l'abusivismo nella ristorazione pesa per oltre 7 miliardi, la contraffazione per oltre 5, il taccheggio per oltre 5. Gli altri costi della criminalità montano a 7,1 miliardi e i costi per la cybercriminalità 3,9. Sono le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio Nazionale, diffuse oggi in occasione della 12ª edizione della giornata Legalità CP. Piace, un'iniziativa di analisi, denuncia e sensibilizzazione sulle conseguenze dei fenomeni criminali per l'economia reale e per le imprese. Si tratta di un appuntamento che promuove la cultura del rispetto delle regole sul mercato, commenta il presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia Gianluca Madriz insieme ai colleghi di Pordenone e di Udine e di Trieste. Contraffazione, abusivismo, pirateria, estorsioni, usura, infiltrazioni della criminalità organizzata, furti, rapine, taccheggio, corruzione alterano la concorrenza comportando la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. Di qui il nostro perseguire due obiettivi strategici attraverso la collaborazione con istituzioni e forze dell'ordine: prevenire e contrastare i fattori legati alla criminalità che incidono sulla competitività delle imprese e rafforzare, diffondere e approfondire la cultura della legalità. Oltre 600.000 euro di sanzioni e tre locali temporaneamente chiusi. E questo è il bilancio dell'intensa attività di controllo messa in campo dai carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo durante il periodo di Pasqua e delle festività successive. Nel mirino dei militari, 14 esercizi commerciali, in prevalenza bar, locali pubblici e attività serali, passati al setaccio nell'ambito di un'operazione ad ampio raggio. I controlli hanno portato alla luce numerose irregolarità amministrative e penali, in particolare relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla regolare assunzione del personale dipendente, nonché al rispetto delle norme sull'igiene e sulla somministrazione di bevande alcoliche. Presentata stamane alla Casa per Anziani Umberto I di Pordenone la settimana della prevenzione con lo screening cognitivo gratuito rivolto agli over 60 per individuare i segni precoci di demenza. Una settimana della prevenzione con screening cognitivi itineranti e gratuiti da sabato 17 maggio fino a sabato 24 maggio nelle piazze di mercato del Friuli Occidentale. L'iniziativa organizzata dall'azienda di servizi alle persone Umberto I di Pordenone in collaborazione con le residenze per anziani di Pasiano e Alzano Decimo è rivolta alle persone con più di 60 anni, prevede un breve check-up con test cognitivi e ha l'obiettivo di favorire l'invecchiamento attivo. Valentina Costa è coordinatrice ASP Umberto I e progetto ARIA. Sarà presente un'infermiera che rileverà alcuni parametri e la psicologa somministrerà dei test cognitivi per uno screening iniziale di primo livello. Ci permettono già di avere una fotografia della prestazione della persona, dei punti di forza e dei punti anche di fragilità, e ci permette quindi poi di dare una restituzione personalizzata, sartoriale su misura alla persona e dare le indicazioni chiare su come potenziare le proprie capacità. Fattori di rischio, buone prassi ed esercizi sono contenuti in una guida pratica per proteggere il cervello. In regione i casi di demenza nella fascia di età sopra i 65 anni sono quasi 27.000. Antonino Di Pietro è presidente dell'Umberto I. Non è più possibile continuare a ritenere la situazione risolvibile solo costruendo nuove case di riposo e creando nuovi posti letto. Secondo me è importante andare nel territorio, informare e iniziare un lavoro di prevenzione, perché l'invecchiamento non deve essere subito, ma deve essere un invecchiamento attivo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Manca meno di un mese alla fine della scuola e in questi giorni si stanno concentrando compiti in classe e interrogazioni che si sommano alla stanchezza accumulata nei mesi precedenti. Tutto questo spesso si trasforma in una fonte di stress e di disturbi psicosomatici. Ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione. Alcuni pediatri lo definiscono il mese peggiore dell'anno, anche più del periodo acuto delle sindromi influenzali. Maggio, per molti ragazzi in età scolare, è il momento in cui si concentrano a raffica verifiche e interrogazioni, fonti di stress, stanchezza, nervosismi e paure che possono scatenare patologie psicosomatiche. La psicologa Lucia Becce, presidente dell'Associazione Telemaco di Trieste. Tanti ragazzi sono centometristi, per così dire, quindi danno il massimo verso la fine della scuola, ma è anche il momento in cui naturalmente si stressano di più. Si sommano gli impegni, il carico e subentra la sensazione di essere davanti a un troppo. E davanti a questo troppo, appunto, di non riuscirvi a fare fronte, può apparire la somatizzazione come via di manifestare un disagio. Quali i sintomi più frequenti di una somatizzazione dello stress? Possiamo avere mal di testa, mal di pancia, soprattutto prima di andare a scuola o durante le verifiche, le interrogazioni. Possiamo avere tachicardia, e difficoltà ad addormentarsi o risvegli notturni, la sensazione di un nodo alla gola, disturbi dell'appetito. Sono molto varie, ognuno ha il suo modo di manifestare questa difficoltà. E come si può trattare un disturbo psicosomatico? Prima di curare un disturbo psicosomatico penso che vada ascoltato e interpretato, perché dobbiamo vederlo non come il nemico ma come un messaggero. Se per esempio appunto un ragazzo ogni mattina prima di andare a scuola ha il mal di testa, dobbiamo chiederci non come farglielo passare ma che cosa sta cercando di dire quel corpo che non ha trovato la via della parola. Ascoltare e stare prima di curare. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si è svolto a Udine il primo incontro del progetto La Via di Ulderico, ciclovia Treffen, finanziato dal programma europeo Interreg Italia-Austria e vincitore nell'ambito dell'obiettivo strategico un'Europa più sociale e inclusiva. L'iniziativa coinvolge i comuni di Udine, Pradamano e quello austriaco di Treffen e mira a valorizzare il patrimonio naturale e culturale attraverso percorsi ciclabili transfrontalieri collegati alla ciclovia Alpe Adria. Il progetto prevede la realizzazione di 3 anelli ciclabili, interventi ambientali e attività educative. Con oltre 120.000 euro di fondi verranno realizzate attrezzature, aree di sosta e cartellonistica per valorizzare il territorio. Sopralluogo con la presentazione dei lavori di ammodernamento del canale di Castion San Mortegliano, progetto gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana che interessa numerosi comuni della Bassa nell'ambito della resilienza dell'irrigazione agricola. Sentiamo. Diminuzione delle perdite d'acqua nei canali e contenimento nei consumi per affrontare la sfida più importante, la siccità. Il progetto di ammodernamento del canale di Castions, con l'esperienza del passato, la grande crisi idrica del 2003 e quella di 2 anni fa, guarda al futuro, alla primavera del 2026, quando sarà completato. Stanziamento da 8.350.000 euro dal Ministero dell'Agricoltura per un impianto che servirà 6 comuni: Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine, Mortegliano e Castions di strada. Roberto Zugliani è il sindaco di Mortegliano. Se vogliamo avere un'ottima produzione agricola e l'acqua è indispensabile, dobbiamo anche poter gestire l'acqua in maniera corretta. Il canale di Castions fa parte del sistema Ledra-Tagliamento. La rete si sviluppa in un percorso di 350 chilometri. L'intervento prevede il rivestimento in calcestruzzo delle sezioni liquide del canale, la demolizione e relativa ricostruzione dei manufatti danneggiati, la manutenzione degli attraversamenti, il rinverdimento delle sponde. Il progetto si sviluppa lungo quasi 14 chilometri. Rosanna Clocchiatti, presidente Consorzio Bonifica Pianura Friulana. È un finanziamento che rientra in quasi 150 milioni di euro che il Consorzio investirà nei prossimi anni con fondi regionali e ministeriali proprio per lavorare sia sul risparmio idrico ma anche sul servizio migliore che si può fare al sistema agricolo. Mortegliano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il basket e i playoff di A2, Cividale supera di nuovo Forlì in casa con il punteggio di 82-74, un successo fondamentale per gli uomini di coach Pilastrini che ora hanno la possibilità di chiudere la serie già in gara 3 venerdì fuori casa. E 2, Cividale si porta 2-0 nella serie e si assicura ancora almeno una partita in casa, ma la semifinale è davvero ad un passo, merito di una squadra che per la seconda volta in 3 giorni riesce a vincere una partita brutta contro un avversario che dell'estetica gliene importa il giusto, ma che negli ultimi 3 anni è sempre stata al vertice. La partenza è lenta, i Ducali dominano ma non scappano, pur tenendo Forlì a soli 3 punti segnati in 5 minuti. Con Miani completamente recuperato, i Ducali vanno sul 20-12, poi però come spesso capita, si inceppano. Parravicini guida la mini rimonta dei romagnoli, Redivo non sembra in forma e con Perkovic Forlì chiude sopra la prima metà. 33 a 32, esattamente come in gara 1, l'inizio riprese shock con errori banali e poca energia. Serve miglior Marangon della stagione per rimettersi in scia e tornare a meno 1, oltre che al solito Magorota, che come il famoso Calabrone, che non potrebbe volare ma non lo sa, e conquista rimbalzi d'attacco segnando da sotto con fallo come fosse 2,10 m. A quel punto si svegliano i big. Miani, dopo la tripla del sorpasso, intercetta e si invola in contropiede, concludendo con uno schiaccione che alza i decibel del palagesteco. Quindi, dopo che Perkovic si è inventato il canestro del pari, è Redivo con la tripla da 9 metri a dare il là alla fuga, subito imitato dal capitano. Il friulano è Dex Apu Gaspardo, è l'ultimo ad arrendersi, ma per i romagnoli non c'è più niente da fare. Un motivo, se contro Cividale sono 0-4 in stagione, evidentemente c'è. Finisce 82-74 con Miani a quota 19 punti e Rote Marangon migliore in campo. Venerdì a Forlì si può già chiudere i conti. Cividale, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Playoff di pallanuoto femminile di A1. Dopo aver superato il plebiscito Padova nei quarti di finale, la pallanuoto Trieste sarà impegnata sul campo dell'Orizzonte Catania, campione d'Italia in carica in gara 1 delle semifinali scudetto. Inizio alle 18:30. Le siciliane sono le favorite assolute nella corsa al titolo tricolore. Gara 2 in programma alla Bianchi sabato alle 18:30. E in conclusione una notizia di servizio: dalle 22 di venerdì 16 maggio e fino alle ore 5 di lunedì 19 l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Sistiana e Duino in direzione Venezia sarà interessata da lavori di rifacimento del manto stradale. Per consentire lo svolgimento delle operazioni il traffico verrà deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione di un doppio senso di marcia con rientro tra lo svincolo di Sistiana e l'area di servizio di Duino Nord. Lo svincolo di Sistiana in entrata in direzione Venezia verrà chiuso. I mezzi leggeri provenienti da Sistiana e da Trieste potranno immettersi in autostrada dallo svincolo di Monfalcone Est, ai mezzi pesanti dal peso di oltre 3,5 tonnellate verrà invece prescritto di entrare in direzione Venezia allo svincolo di Sgonico. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Andrei Marussic, in regia per la parte tecnica Carlo Morello, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Grazie a tutti per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.